Ha detto cuore mio fa un tentativo, a mezzanotte va sotto balcone, che l'ha fatto solo per currivo. Ma se fa intenerì con una canzone, e so tornato a ca, questa chitarra mia per te cantare. Ma sta serenatella che hai porta a te, è una serenatella, shue, perché se non me siente io resto indifferente, a mille bocche ardente me voglio fa passare, perciò sta canzoncella che hai canta a te, è una serenatella, shue. Mi dato pace in un momento e me l'hai fatto perdere la pazienza, si mo cantando metto sentimento o faccio più per scrupolo e coscienza, o cuore ha detto va e non me so potuto rifiutare. Ma sta serenatella che hai porta a te, è una serenatella, shue, perché se non me siente io resto indifferente, a mille bocche ardente me voglio fa passare, perciò sta canzoncella che hai canto a te, è una serenatella, shue. Shue. Shue. Perché se non me siente, io resto indifferente, a mille bocche ardente, me voglio fa passare. Perciò sta canzoncella che hai canto a te, è una serenatella, shue, shue, shue, shue.